Allora, ripeto perché l'ultima frase non l'ho registrata, se è chiusa. Allora, insomma, abbiamo detto in breve che quindi l'intento di Asimov è un intento tipicamente pedagogico perché la sua intenzione è quella di combattere contro quella che lui chiama la sindrome di Frankenstein, cioè l'eccessiva paura che ha ai suoi occhi di scienziato, Asimov è un biologo, l'eccessiva paura che gli esseri umani hanno di questa loro creazione, di questa loro creatura artificiale che si ribella. Quindi la sua idea è quella di dimostrare che sarebbe possibile che esistessero o che ci fossero delle macchine pensanti, delle macchine in grado di ragionare, di essere simili agli esseri umani, senza che questo debba per forza portare con sé una. Quindi come dire, è una intenzione conciliatrice che ha Asimov, è un'intenzione di mettere le cose a posto, di non, insomma, lui aveva una grande capacità ovviamente di pensare storie, di immaginarsi storie, insomma, la gran parte dei suoi racconti dei primi anni 40, dei primi anni 40, sì, sono i primi anni 40 in cui fa racconti tra il 39 e il 41, 42, pubblica tutti i racconti che poi verranno riuniti nella antologia dal titolo I Love, da cui è stato tratto recentemente un film che forse conoscete, discutibile, con l'immarcescibile Will Smith che fa sempre le stesse cose in tutti i film, compreso in questo, e in cui però insomma sono questi robot, infatti avete visto tutti com'è. È un film che arriva con un ritardo incredibile su di un immaginario datato diciamo, da molti anni. Insomma, se tenete conto che praticamente più di 20 anni prima ai robot c'è Blade Runner che è tutto basato su di una tematica che supera di gran lunga quella di Asimov, che è basata sui romanzi di Philip Dick, comunque. Asimov è uno degli esponenti di punta della cosiddetta, viene chiamata technological science fiction, mentre la fantascienza delle origini, dei tempi di Gernsback, degli anni 20, anche prima, viene chiamata in genere l'epoca della space opera, cioè della fantascienza avventurosa. La space opera è un calco su soap opera o horse opera, cioè in genere col termine opera gli americani intendono un genere, diciamo, avventuroso e un po' disinvolto, non troppo approfondito. Mentre la fantascienza cosiddetta tecnologico che viene costruita intorno a un'altra rivista, non era più Amazing Science Fiction, era Amazing Stories, ma era Astounding Science Fiction. Il termine science fiction era stato coniato proprio da Gernsback diversi anni prima. Gernsback in realtà aveva usato il termine science fiction, scienti-fiction. Poi rapidamente, dopo poco tempo, si era cambiato. Science fiction col trattino, senza trattino, c'è tutta una diatriba, c'è stata. Comunque, insomma, diciamo, Astounding Science Fiction, diretta da un personaggio geniale ma un po' paranoico, che si chiamava John W. Campbell Jr. John W. Campbell. Come la zuppa? John W. Campbell Jr. In questa fantascienza, che è in questa rivista, Campbell raccomandava ai suoi autori di fare più attenzione all'attendibilità scientifica delle cose, scientifica e tecnologica delle cose che scrivevano. attendibilità, che non vuol dire che, cioè, non, che non dovesse essere ovvio che se voi parlate di robot, parlate di una, nel modo in cui ne parlano loro, si parla di una tecnologia, diciamo, avveniristica, insomma, futuribile. Ma mentre nella frangente di prima ci si preoccupava del sole, secondo che si parlava di grandi viaggi interstellari, astronavi, senza preoccuparsi di, diciamo, senza preoccuparsi della minima plausibilità. Addirittura Wells era, è stato tipico da questo punto di vista, cioè della non plausibilità. Se voi pensate al modo diverso in cui Verne e Wells, che scrivono entrambi dei libri sul viaggio dell'uomo verso la Luna, però Verne, che era un po' più attento a una idea di plausibilità tecnologica, si inventa un mega cannone che spara un proiettile. Uno dice inattendibile, però perlomeno cerca di spiegarci una vera tecnologia attraverso cui l'uomo possa arrivare sulla Luna. Quando Wells deve fare la stessa cosa pochi anni dopo, si inventa un metallo fantastico che lui chiama cavorite, metallo che avrebbe la proprietà di annullare il campo gravitazionale. Una roba che non esiste, insomma. Campbell avrebbe detto no, riscrivi e metti qualcosa di più plausibile. Vabbè. Quindi plausibilità scientifica, diciamo, predica Campbell. E seconda cosa, anche attenzione agli effetti sociali delle tecnologie. Questa attenzione agli effetti sociali delle tecnologie, che comincia con l'epoca di Campbell negli anni 40, verrà poi addirittura, amplificata e quasi esagerata, no, insomma, verrà messa veramente in primo piano una decina di anni dopo, quando intorno a un'altra rivista, che si chiamava Galaxy, nascerà una nuova tendenza della fantascienza che possiamo chiamare, è stata chiamata in inglese, la social science fiction. In italiano si è detto quasi sempre fantascienza sociologica, insomma, fantascienza sociale. La social science fiction, cui esponenti principali sono Frederick Pohl e il suo socio Cyril M. Kornbluth, Robert Shipley, e in posizione un pochino defilata un giovane che sarebbe diventato molto più famoso dopo morto che non da vivo, che rispondeva al nome di Philip K. Dick. Anche nella social science fiction i robot imperversano. Come nella technological science fiction di 10 anni prima, ma sono dei robot un po' più, cominciano già a essere delle componenti di un gioco, diciamo, sociale, di un... Però la cosa più importante è che, però, diciamo, in qualche modo, tradendo il modo in cui il termine era stato inventato da Čapek, l'aspetto, diciamo, fenomenico di questi esseri è comunque sempre quello di scatole di metallo, scatole di latta. Non sono niente più che l'omino di latta del Mago di Oz, di Frank Baum. Tanto è vero che a un certo punto, quando sia Asimov che altri ritornano all'idea di Čapek, cioè di avere invece degli esseri artificiali, sì, ma che assomiglino molto di più all'uomo, anzi, di fare di questa indistinguibilità tra il robot e l'uomo un elemento, cioè, dico, in qualche maniera devono cambiare nome. Infatti, Asimov, per esempio, li chiama questi nuovi robot che assomigliano sempre più agli esseri umani, li chiama humanoid robots, robot umanoidi, o addirittura a questo punto viene riesumato il termine settecentesco e vengono chiamati androids. Quindi, gli humanoid robots o gli androids sono la nuova tappa della fantascienza un po' più matura, sia in quella tecnologica che in quella social, insomma, e sono robot che non si distinguono dagli esseri umani e quindi creano i paradossi, insomma, di questa epoca. Asimov ha scritto due romanzi, soprattutto negli anni 50, dopo i racconti del ciclo di I, Robot. Ci sono due romanzi in cui il cui protagonista è un robot umanoide che fa il poliziotto e lavora in coppia con un investigatore umano. I due romanzi sono The Case of Steel il cui titolo italiano è La bici d'acciaio, mi sa che è del 52-53, dagli anni guardateli su Wikipedia, che fate prima e non so che vediamo su. Io ti e il secondo è The Naked Sun. Poi negli anni successivi, molti, poi Asimov scrive, in quegli anni lì scrive un altro ciclo. Questo qui sono due romanzi collegati tra loro, cioè con gli stessi personaggi. I due personaggi sono Elijah Baley, che è il detective umano, e R. Daniel Holivoe, che è il detective androide, robot umanoide. Gli androidi sono obbligati in questi romanzi a mettere una R davanti al proprio nome proprio perché si guarda che è un robot, perché sennò non verrebbero, diciamo, distinti. E tutto il fulcro intorno a cui ruotano, insomma, diciamo, lo scenario sociale di questi due romanzi di Asimov è proprio questo, cioè il fatto che sulla Terra, che è una Terra sovraffollata, bla bla, eccetera, in cui tutto il pianeta praticamente della Terra è diventato un'unica città enorme in cui si gira, ci sono è uno dei romanzi in cui maggiormente viene fuori questa figura della città a più livelli, cioè della città non solo strutturata con i grattacieli, ma proprio con, che poi in tanti film si è vista, tipo il Quinto Elemento, insomma, quindi in cui ci sono le strade a diversi livelli, insomma, queste robe qua. E allora, in queste città sovraffollate, eccetera, eccetera, gli esseri umani che hanno paura, ecco la sindrome di Frankenstein, che hanno paura di essere a contatto con dei robot, quindi con delle persone che non sanno distinguere a prima vista se siano esseri umani o no, quindi hanno bandito i robot dalla Terra. E i robot stanno solamente nei pianeti lontani dove ci sono i coloni, nei pianeti colonizzati, dove fanno da servitori per gli esseri umani, e in cui gli esseri umani di solito abitano da soli e il loro vicino di casa più vicino abita tipo a 200 km, in grandi case, in grandi fattorie, con schiere di questi robot che collaborano con loro. E loro sono macchine intelligenti, macchine che parlano, eccetera, eccetera. E c'è lo scontro tra questo genere di cose. La bici d'acciaio è ambientato sulla Terra. Il sole nudo è ambientato su Solaria, che è uno di questi pianeti lontani, c'è un giallo che bisogna risolvere, e ci sono due, per una serie di motivi, devono collaborare un detective umano e un detective umanoide robot. E i due libri sono la storia del superamento dei pregiudizi antirobotici da parte dell'essere umano e della come dire, capacità empatica, eccetera, eccetera, del robot umanoide, cioè, e sono cose che finiscono, più o meno vanno a lieto fine, grosso modo, insomma. Cioè, Asimov, nei racconti degli anni del decennio prima, degli anni 40, il personaggio principale dei racconti di Rob, dei racconti di Asimov, era una dottoressa umana, la dottoressa Susan Kelvin. Adesso c'è una mia amica su Facebook che si è fatta chiamare Susan Kelvin, perché insomma c'è questa cosa. Ormai tutti i nomi si riciclano in questo carosello di immaginari dei social network, quindi c'è una Susan Kelvin. Questa Susan Kelvin, che è quella che avete visto nel film, insomma, però nel film è una gnocchetta, insomma, è una abbastanza, invece nei racconti è una meno appariscente di così, insomma, di come appare nel film. Perché la chiama? Perché è quella che fa di mestiere la robopsicologa, cioè risolve i problemi, perché Asimov comincia a dire, guardate che anche i robot possono avere degli scompensi al loro cervello positronico, come dice il nome di questo cervello artificiale, è un cervello a positroni, cioè a elettroni positivi. Il positrone è una particella che adesso è stata abbandonata, ma che si supponeva negli anni 20 e 30 che potesse esistere, perché in realtà c'è, perché se c'è l'antimateria ci saranno pure i positroni al posto degli elettroni, però insomma è meno il cervello positronico, che a volte allora, descrive come una massa spugnosa, una cosa strana. Ci saranno anche i robot, quindi possono. Lui spesso racconta in alcuni casi delle storie di robot i quali, come dire, perdono la bussola quando può succedere, quando vengono messi di fronte a situazioni che siano indecidibili per loro, su cui essi non possano, diciamo, decidere. Sapete probabilmente anche che uno dei grandi meriti di Asimov è stato quello di avere inventato le famose tre leggi della robotica, che hanno poi, da quel momento in poi, sono state più o meno adottate anche da una serie di altri motori, e sono quelle che fissano i binari all'interno dei quali scorre il comportamento dei robot. La prima legge: nessun robot può danneggiare alcun altro essere umano. Seconda legge: ogni robot è tenuto a dare aiuto a ogni essere umano in difficoltà, purché questo non contrasti con la prima legge, quindi non possono uccidere un altro essere umano per salvarne uno. E la terza legge: ogni robot deve difendere se stesso, cioè deve assicurare la propria salvaguardia, a meno che ciò non contrasti con la prima legge, che vuol dire che il robot si può sacrificare benissimo per salvare la vita di un altro essere umano, ma non può sacrificare alcuna vita umana per salvare se stesso. Negli ultimi tempi ci sono stati anche dei romanzi in cui si è provato a vedere cosa succede quando un robot viola la prima legge. Mi sa che anche nel film c'è una roba di questo tipo, insomma, perché gli è stata, siccome sono leggi che vengono inserite, impresse in questi circuiti, nel cervello positronico viene. Quindi diciamo, i racconti del primo periodo sono prevalentemente racconti nei quali i robot si trovano di fronte a dilemmi logici, cioè situazioni contraddittorie dal punto di vista che loro non riescono a risolvere dal punto di vista logico, oppure situazioni che gli esseri umani non riescono a risolvere con la propria logica, che invece i robot riescono proprio perché sono dotati di un'altra cosa. Insomma, c'è sempre questa. Mentre nei romanzi prevale più l'idea del confronto, cioè degli effetti sociali di una tecnologia, cioè le eventuali reazioni che la comparsa di esseri umani, di esseri artificiali con l'aspetto umano può portare, può creare nei confronti della società, quindi quali reazioni sociali possono essere innescate dalla presenza dentro la società di elementi di questo tipo. L'altro grande romanzo di quel periodo, in realtà un po' più tardo, sui robot umanoidi, che vengono chiamati invece in questo caso androidi, probabilmente lo conoscete già, ed è il Do Androids Dream of Electric Sheep, ma gli androidi sognano pecore elettriche, di Philip Dick, che è stato scritto nel 1968. Philip Dick non era tanto preoccupato, perché Philip Dick è già matura in un clima diverso da quello di Asimov. Beh, un po' più giovane, ma neanche poi di tanto, insomma, di Asimov, però le sue preoccupazioni sono diversissime, non, quindi non gliene frega molto a lui della sindrome di Frankenstein, eccetera. Anzi, per certi versi, Do Androids Dream, da cui sono tratto Blade Runner, come tutti sapete, ci gioca un po' con una specie di sindrome di Frankenstein, perché dice, oh, insomma, diciamo, yes. E gioca anche. Diciamo, ribalta il meccanismo della macchina che si ribella. In realtà il film lo ribalta ben più del libro, insomma. Però anche nel romanzo di Dick, la somiglianza di forma, cioè l'indistinguibilità tra un essere umano e un essere artificiale, diventa un elemento narrativo, diventa uno degli, diciamo, elementi che definiscono lo sfondo sul quale si muove il romanzo. Dopodiché, ovviamente, diciamo, racconti e romanzi sui robot vanno avanti anche dopo, insomma, queste sono un po' le radici e questi sono anche i periodi più freschi, gli anni 50, al massimo 60, sono quelli nei quali, come dire, la fantascienza ha ancora una forza immaginativa, insomma, come dire, forte, vergine in qualche maniera, in sviluppo, in una fase ancora di. Perché è in una fase, tutto sommato, espansiva la società industriale, o perlomeno crede ancora di esserlo, o perlomeno vive gli ultimi effetti, gli ultimi bagliori di una fase di espansione che si è protratta per tutta la seconda metà dell'Ottocento e in parte per la prima metà del Novecento. E non a caso poi il punto di svolta saranno gli anni 70, tra gli anni 70 e 80, quando si rende conto che quel modello, diciamo, di sviluppo capitalistico non è più così espansivo e il modello del capitalismo cambierà, con il risultato che la fantascienza avrà difficoltà a sopravvivere. Probabilmente la fantascienza come l'abbiamo conosciuta noi della mia generazione o quelli della mia, quella fantascienza lì ormai non c'è più, insomma è morta. E tutti i suoi materiali vengono riciclati dentro altre, tipico esempio, Avatar. Voi avete visto Avatar, io mi sono divertito a trovare le vere fonti di Avatar e sono tutti racconti e romanzi di fantascienza degli anni 70 e scritti in gran parte da donne. Ma Avatar non è più un film di fantascienza in senso classico. Ha preso questi elementi e li ha rimestati, rimescolati dentro una sorta di nuovo fantasy magico, ecologico, in cui ci sono degli elementi fantasy, ma non è considerabile un film di fantascienza come fa finta, come ancora faceva finta di essere iRobot e, per esempio, I Am Legend degli ultimissimi anni, come erano i grandi film di fantascienza anche in bianco e nero degli anni 50 o come è stato 2001 di Kubrick, in cui non è che ci importa di appiccicare, diciamo, come etichette, ma quando diciamo fantascienza intendiamo dei film nei quali l'elemento tecnologico e scientifico in quanto tale gioca un ruolo preciso nella costruzione del mondo o nell'immaginario di quel mondo e in cui c'è una più o meno grande, più o meno minacciata fiducia da parte dell'essere umano di poter costruire un futuro. molto probabilmente quello che viene meno oggi è insomma questo. Ed è per questo, credo, che possiamo dire quindi che l'epoca della fantascienza classica, cioè la prima metà del Novecento fino agli anni 60, 70, prima metà degli anni 70, insomma, si può dire che dal nostro punto di vista noi possiamo chiamarla l'era del robot. Il robot è una figura centrale in quel genere di, cioè, immaginario, letterario e cinematografico. E riflettiamo bene, perché dovremmo cercare di capire perché e che cosa significa che una figura centrale dell'immaginario sia un uomo artificiale, cioè un essere diverso da noi, che ha una storia genetica diversa dalla nostra, che ha un processo, che viene prodotto, che è un prodotto in genere dell'attività creativa, intellettuale, industriale, pratica, operativa di noi esseri umani, i quali però costruiamo qualcosa che è un raddoppiamento nostro, no? Che è un doppio nostro. Beh, se ci pensate bene, descritta in questo modo, ho detto, il robot è il prodotto di un processo di costruzione, di produzione umana. L'uomo produce, con gli strumenti che gli sono tipici, qualche cosa che sta fuori di lui, ma che è simile a lui, che lo riflette, che lo rispecchia in qualche modo. Non si potrebbe descrivere nello stesso modo il linguaggio? Non è un lavoro di tipo linguistico? Che cos'è il linguaggio, in fondo, se non la produzione di qualcosa che va fuori di noi perché è suono, o è parola scritta, insomma, primariamente è suono, qualcosa che va al di fuori di noi e che costruisce, beh, il linguaggio addirittura costruisce il doppio della realtà. Ciò che io sperimento confusamente e inconsciamente lo metto a posto con il linguaggio, lo descrivo, la realtà parlata, la realtà descritta diventa mondo, diventa il mondo, non solo quello artificiale, ma anche quello che sta fuori di noi, che non dipende da me. Quindi potremmo dire che il robot è una tipica costruzione linguistica, ma è una tipica costruzione non soltanto linguistica, ma di un'epoca in cui c'è una qualche fiducia nel linguaggio, in cui, pensate a quello che ho detto di Asimov, in cui anche l'esistenza di contraddizioni o di difficoltà create dalla esistenza di questo doppio, in qualche maniera però c'è speranza che vengano risolte. Il robot è ancora figlio di una epoca in cui c'è una certa fiducia nel futuro, una certa fiducia di poter progettare le cose, di poter costruire il mondo, un mondo che verrà, ma verrà. Io l'ho pensato, noi l'abbiamo pensato, la specie umana lo pensa e a poco lo proietta, lo costruisce fuori di sé, cambia le cose in modo che ho pensato questo. Beh, questo è il progettare, questo è quando qualsiasi lavoro di cosiddetta progettazione. Da, voi pensate una cosa, poi a poco la vedete fuori. Quindi il robot è figlio ancora di un senso del futuro. È figlio di un senso della distanza tra l'uomo e il mondo. Per poter pensare un essere che ci assomiglia, ma che non ha la nostra storia, dobbiamo poter pensare di non identificarci totalmente con questo mondo, di essere immersi nel mondo, ma al contempo di poterne anche stare fuori, di poterlo guardare da fuori, di di poter avere una distanza, non dico nel senso solo fisico, ma anche mentale, concettuale, tanto da poterci rendere conto delle diverse relazioni che si creano all'interno di questo mondo, tra noi, certo che siamo degli elementi del mondo, e i nostri doppi che sono fuori di noi, per esempio i robot. Terzo elemento, terza condizione per la quale si possa parlare, si possa fare un discorso sull'uomo artificiale, in questo senso sul robot, diciamo, la terza condizione è che si abbia fiducia nella autonomia degli strumenti umani, degli strumenti culturali. Autonomia che spesso verrà descritta e che avrà degli esiti drammatici. Di contro a cosa? Nei confronti di cosa? Di contro al sistema produttivo, di contro alla logica economica di creare delle merci. Tanto in Ruhr di Čapek quanto in Do Androids Dream of Electric Sheep di Dick c'è questa tematica. I robot sono forza lavoro, sono strumenti per la produzione, ma la scintilla dell'autocoscienza, i processi di autocoscienza che rendono il robot, sia quello di Čapek sia gli androidi di Dick, così simili a noi, sono anche la garanzia che questi esseri non sono riducibili a merce, come l'uomo non è riducibile a merce. Quindi tutti questi discorsi, diciamo, del robot, per quanto venati di pessimismo possono essere, lasciamo perdere quello di Asimov, il quale invece è terribilmente ottimista, dice no, guardate che tutto si risolve con la porta della ragione, arriva la dottoressa Kelvin, no? Guardate che ce la faremo. Anche Dick, che è molto più pessimistico, però nel momento in cui si pone quel problema è perché, rispecchiando in questi robot una capacità linguistica che abbiamo anche noi, attraverso il, diciamo, linguaggio che in qualche maniera ci accomuna a questi robot, noi vogliamo, o questi autori vogliono, affermare la fiducia in una dimensione della vita, dell'esperienza umana, non tutta riconducibile alla mercificazione, no? Alla creazione di merci. Vediamo se mi ricordo bene quello che ho detto. Senso del futuro, capacità di progettazione. Qual era il secondo? Distanza. Capacità di avere una distanza tra se stessi e il mondo, fiducia nella autonomia di una cultura non mercificata, di strumenti culturali non assorbiti nel mercato delle merci. La mia domanda sarà un po' secca, rimane qualcosa di questi tre punti al giorno d'oggi? È un eufemismo. Il futuro è scomparso, il futuro non esiste più. Si lavora per l'oggi. Le fabbriche non hanno più i polmoni produttivi delle cose che venderanno fra 6 mesi. Oggi, just in time. Questa è l'economia, l'immersione. Questo è lo spettacolo come va avanti. Il tempo è un presente dilatato, ma non c'è più. Il passato può essere riciclato a pezzetti, triturato e mantrugiato e buttato. Il futuro arriva prima che noi possiamo, abbiamo talmente velocizzato i ritmi e i tempi degli strumenti che non abbiamo più. Non c'è più il tempo classico dal punto di vista della sua percezione sociale. Il primo dei presupposti della fantascienza e di quella figura del robot non c'è più. La distanza, c'è ancora distanza tra noi e il mondo. Abbiamo la capacità di fermarci, di guardare le cose da fuori, di... Certo, no. Certo che ogni tanto lo facciamo, ogni tanto possiamo luci, ma nel momento in cui cominciamo una certa riflessione c'è qualcosa che incalza dietro di noi. C'è sempre qualcosa che ci avvolge. Anche il cinema, che era uno dei classici luoghi in cui si esercitava questa distanza tra noi e il mondo, distanza dialettica che noi volevamo colmare, che noi volevamo, con la nostra mente, volevamo proiettarci dentro lo schermo cinematografico, ma lo potevamo fare soltanto simbolicamente, perché era il nostro desiderio di, la nuova cultura del Cairo, chi ha visto il film di Woody Allen, in cui la gente esce dallo schermo, entra, esce, faceva vedere che c'era. Ma lo schermo stava sempre lì e noi stavamo sulla nostra poltrona e sapevamo benissimo che noi stavamo in poltrona e lì c'era lo schermo. Ma che cosa sta facendo lo schermo cinematografico adesso? Ci sta venendo fuori, sta venendo verso di noi, piano piano, lo fa in modo intelligentissimo. Il 3D di Avatar non è aggressivo, non c'è lo squalo che sembra che ci morda il naso, però noi non ce ne accorgiamo, ma siamo dentro, è l'immersione. Il regno dell'immersività è la fine della distanza. Non è proprio così. Leopardi ha fatto questo discorso nella cultura italiana, anche il Foscolo. Leopardi è uno dei centri della sua poetica, è la perdita dell'illusione, eccetera. Ma anzi, proprio nel momento in cui tu perdi l'illusione, ti metti fuori, dice cazzo, no? Adesso guardo da fuori, ti dico, guarda che le cose non stanno come avevi pensato tu fino a ieri. Adesso ho usato l'esempio, diciamo, di Avatar della trasformazione che sta vivendo il cinema, che sta entrando in un'epoca totalmente nuova, proprio grazie a queste tecniche, perché mi pare che il nuovo cinema in 3D sia un buon indizio di qualcosa però di molto più generale. Se il cinema 3D avrà successo, e nessuno dubita che ne avrà, perché non sono tutti cretini, non avrebbero, cioè tutti stanno facendo investimenti a iosa su questa cosa, ma perché sanno, perché si vede, perché si capisce che c'è un desiderio, nessuna tecnologia si è mai imposta contro il desiderio della gente. Se le tecnologie hanno avuto successo è perché erano delle risposte più o meno dure a delle esigenze inconsapevoli magari, ma che c'erano fuori. Questa società ha una esigenza di immersività, di sentirsi dentro alle cose, di sentirsi parte delle cose, di sentirsi di partecipare ai processi, ma la partecipazione, che nessuno nega che sia una cosa molto bella, molto buona, un'aspirazione desiderabile, ma c'ha le sue contropartite, c'ha i suoi contro, ha i prezzi che devo pagare. Uno dei prezzi che si pagano per l'immersione, la partecipazione, lo stare dentro, è che abbiamo sempre maggiore difficoltà a guadagnare quella distanza critica che ai tempi della modernità ci aveva consentito di riflettere su, di guardare, ci vuole questa certa distanza. Allora, il futuro non c'è più, la distanza non c'è più, quanto alla possibilità di sottrarre la cultura all'abbraccio della merce, ditemi voi, nel momento in cui le merci principali e prioritarie sono quelle dell'immaginario, sono i prodotti dell'immaginario, sono le storie televisive, sono i software del computer, sono la creatività che le singole persone esercitano in tutti i campi della propria vita, dal vestire allo stile di vita, e ognuna di queste cose diventa un pezzo dell'industria post-fordista, dell'industria dell'immaginario, tutto diventa il linguaggio, si mette a valore il linguaggio è valorizzato, no? Quindi tutte queste cose ci dicono che è finita la fantascienza classica, è finita l'epoca del robot. E io ho il massimo rispetto per le persone che anche oggi scrivono libri sui robot, ma mi pare, con tutto il rispetto, che ci parlino però di un mondo che è già bello, che è spacciato e che è morto. E adesso non lo faccio per tirare l'acqua al mio mulino, ma mi pare che ci sia una figura che incarna molto meglio nel bene e nel male questa difficoltà di gestire il tempo, questa fine della distanza, questa mercantilizzazione, questo ingresso del mondo e della tecnologia all'interno direttamente del corpo dell'uomo. E ovviamente questa figura è il cyborg. Questa figura è non la replica dell'essere umano, non un essere umano diverso da noi, che però fa come noi, che ci fa diverso, che può costituire un polo dialettico con cui posso battagliare, da cui posso imparare delle cose. No, tutta questa dialettica esterna tra un essere umano e un uomo si trasferisce all'interno del corpo dell'uomo. È dentro di noi, fine della distanza, l'immersività, è dentro di noi che la dialettica tra tecnologia e non tecnologia, tra tecnologie diverse, tra immaginari diversi, accade. Il robot è la figura tipica di un immaginario della modernità, di un immaginario della distanza, di un immaginario della critica. Il cyborg è la figura tipica di un immaginario dell'immersività, di un immaginario della partecipazione, di un immaginario della prossimità, di un immaginario della interiorizzazione del conflitto. Della interiorizzazione del conflitto. Di cyborg ce n'è nella fantascienza dagli anni 20, ma come c'erano gli uomini di bronzo nell'Iliade, più o meno. L'immaginario greco non è un immaginario di uomini artificiali, sono una minuscola cosa che sta lì e noi adesso, guardate, c'erano già i cyborg degli anni 20, no? Le opere letterarie che rappresentano il trionfo del cyborg ovviamente sono le opere del cyberpunk letterario, in letteratura, nel fumetto, sono i fumetti di supereroi che a volte addirittura con qualche anticipo negli anni sulla c'è una letteratura cyberpunk che è dei primissimi anni 80, hanno costruito questa cosa, ovviamente al cinema. Quindi se c'è una figura che descrive la nostra condizione, che descrive, che problematizza, che metaforizza, che consente di problematizzare un po' la nostra condizione attuale, io credo che oggi sia prevalentemente più che altro quella del cyborg. Ora però, come è definibile un cyborg? Insomma, un cyborg è un essere umano nel quale ci sono sufficienti componenti artificiali, cioè sufficienti componenti di origine non spontanea, non dovuta alla nostra storia puramente biologica, tali da intervenire in maniera decisiva sul nostro funzionamento. Probabilmente non basta avere un paio di occhiali per essere un science. Gli occhiali posso sempre togliere, posso sempre metterli. Forse non basta neanche avere una dentiera, forse non basta neanche... Già se ho un bypass, già se ho un pezzo di metallo dentro le ossa della gamba, se no non posso camminare, ma sono ancora cose, tutto sommato, diciamo, esteriori. Essere un cyborg oggi significa un campo di possibilità più che una condizione definibile con precisione terminologica. Probabilmente è fondamentale il fatto che da circa 20 anni a questa parte si possa almeno teoricamente intervenire sul DNA degli esseri umani che nasceranno. Poi non importa se realmente questo viene fatto o no, ma nel momento in cui questa ci sono alcune cose, ci sono alcune condizioni che per il solo fatto di essere possibili determinano una condizione, anche se non vengono realmente applicate, che prima o poi lo saranno in qualche maniera. La logica, diciamo, con gli esseri umani è questa: non ci sono leggi che possano impedire né di abortire né di fare qualsiasi cosa. Se qualche cosa è possibile farla tecnicamente, tu la puoi mettere fuori legge in un posto, ci sarà un posto vicino in cui non è fuori legge, vai a farla lì. È vietato clonare gli uomini in tutto il mondo, va bene, quando tecnicamente sarà possibile davvero clonare un essere umano, quelli che hanno sufficienti soldi, che sono sufficientemente ricchi, si costruiranno un posto clandestino, segreto, inaccessibile, in cui clonare gli esseri umani, anche se questa attività sarà fuori legge, vietata in tutto il mondo. Non ci sono Cristi, possono mettere fuori legge quello che vogliono. Hanno ristretto il numero delle opere rendendole illegali? Tutto il contrario. Hanno aumentato l'uso e hanno arricchito le mafie internazionali in questo modo. La strada delle opere forse legali, tutte pesanti, perché chi vuole, più volte uno vuole farsi pieno tutto il giorno, se fa, perché se ne pregano. La cosa importante è che non costi una dose, quindi costringano la pareva, dopodiché se uno vuole farsi una pera sulla parte che male fa. Gli intellettuali e artisti si sono fatti di occhio per quali grandi mali effetti sociali ha avuto Baudelaire che si faceva, o De Quincey che si faceva, non ha senso un cazzo, mai. Insomma, poi... Freud c'è la cocaina, alla mandibola, il titolo, come scudo con la gente, chiedo grazie anche per altre cose. Comunque, insomma, diciamo, adesso questo ci porta lontano. Diciamo, comunque, in linea di... Allora, quindi, non è importante, non sono importanti gli elementi artificiali che noi abbiamo già oggi. E questi elementi artificiali, attenzione, non sono soltanto degli eventi artificiali materiali, non sono soltanto i bypass, non sono soltanto i tratti di vene o di arterie di plastica che si possono mettere, non sono soltanto le placchette metalliche nelle ossa, non sono soltanto le gambe artificiali di Pistorius, che pure sono eclatanti, che si vedono e che creano una serie di cose, non sono queste. Noi siamo dei cyborg e lo siamo tendenzialmente tutti oggi, perché siamo dentro una situazione di artificializzazione generalizzata del corpo, di visione di questo corpo come artificiale, di possibilità, possiamo essere artificializzati da un momento all'altro in maniera diversa a seconda delle possibilità tecniche, delle possibilità economiche, eccetera, ma questa possibilità ormai per gli esseri umani è data. Nel momento in cui... E questa possibilità, direi di più, c'è da più di un punto di vista. Io nel mio libro, nei due libri che ho scritto su questo argomento, cioè il cyber e il corpo virtuale, che affrontano praticamente lo stesso tema, ma da un punto di vista un po' altro, direi. In tutti e due questi libri ho cercato di descrivere le condizioni all'interno delle quali i diversi processi possono avvenire più o meno probabilmente, cioè quali sono le condizioni a monte e a valle della creazione delle singole, diciamo, figure. Nel corpo virtuale, libro che non vi do più perché è fuori con me, che non so il tempo, che dovrei convincermi a istampare in qualche modo, comunque, cercando di capire come si poteva descrivere in generale il processo di artificializzazione del corpo, ho proposto di classificare i corpi artificiali in tre grandi categorie. Quello che ho chiamato il corpo replicato, che ovviamente che sono i robot, insomma, che sono gli uomini artificiali in quanto tali. Poi il corpo in vaso, che è questa ibridazione tra il corpo e la tecnologia a cui che fa riferimento il cyborg, e quello che ho chiamato il corpo disseminato, che sono stato incerto a lungo se andasse considerato come una delle trasformazioni del corpo in vaso, ma poi ho pensato che fosse meglio lasciarlo come una categoria, però è un processo che però è più simile a quello del cyborg, che è più simile a quello del cyborg. Il corpo disseminato sono gli effetti di realtà che genera il corpo tramite le tecnologie. L'esempio più stupido è quello del teleprofisso cellulare. Quando voi avete la possibilità di trasportare la vostra voce da un punto all'altro del vostro pianeta, che cosa avete realizzato? Non è un corpo replicato, che non è creato in un altro modo dall'altra parte, non è neanche un corpo privato, che voi siete un corpo replicato, però c'è qualcuno a un po' di chilometri di distanza che sente la vostra voce come se voi foste lì. Allora, noi per noi è una cosa banale, adesso anche per me che sono nato che ragazzi il telefono, ma insomma, pensate che fino a un secolo fa non c'era il telefono, è stato considerato una cosa magica quando è apparso. Ora, la voce di un essere umano, che cos'è la voce? È un effetto del corpo, no? Se non c'è il corpo non ci può essere la voce. Quindi è come se noi, tramite il telefono, disseminassimo il nostro corpo, lo trasferissimo, ne trasferiamo non dei pezzi, ma degli effetti. Ma è come se il nostro corpo fosse contemporaneamente qua, noi che parliamo, e là, dall'altra parte, quello che sente. Con il digitale in generale possiamo fare un telefono, possiamo costruire telefoni plurisensoriali. Questa idea, diciamo, mi venne nel 93-94, quando viene progettata la prima tuta per fare sesso a distanza. Viene progettata e costruito un prototipo di tuta fatta per fare sesso a distanza, non da soli fisicamente, ma in contatto, diciamo, telematico con un partner, si indossa una tuta che contiene degli appropriati stimolatori, non vi devo spiegare perché differenti a seconda dei due sessi, uno più, alcuni simili, uno per noi è differente, e poi si crea un software, ho scritto un articolo serissimo quando uscì su questa cosa, sulla rivista Virtua, perché ero molto interessato concettualmente a questa cosa, sapevo che andava su di noi. Fate un software e il vostro partner nella stanza accanto o in, Australia, non importanza, agisce su di un simulacro, su di una rappresentazione, su una rappresentazione del vostro corpo, sul suo schermo e tramite lettere o i cavi sottomarini, il suo cliccare su di un computer, sulla tastiera, si trasforma nella vostra tuta in una stimolazione del punto che lui ha scelto e voi fate la stessa cosa con lui e potete con lui, con lei, con quello che sta, e potete fare l'amore a distanza, a tramore, fate una no, questo è il corpo disseminato, questo è il corpo che voi avete, il vostro corpo l'avete disseminato, è come se siete là, non ci siete voi, c'è un vibratore, c'è una vagina cervicale, c'è un cazzo che lo volete, mai in questo caso mi stavo proprio appropriato, tanto ormai rimangono tutte le memorie, queste cose sono puttanate la vita. E quindi è come se un pezzo del vostro corpo fosse là, però contemporaneamente qua, quindi veramente il corpo disseminato in qualche maniera realizza una sorta di ambiguità. Notate che anche questo corpo disseminato è qualcosa che può e deve fare a meno di futuro, di distanza e di autonomia della, diciamo, cultura, perché entra dentro tutto questo gigantesco processo. Anzi, è un sintomo ed è un indice di questo processo. Anzi, molto curioso, e mi sa che vado pure a recuperare l'articolo di Virtua che scrissi quell'anno lì, completo e posto, perché siamo padrina di questo evento, e ha una mia amica che si chiama Elena Serena, che è uno dei primi transessuali italiani, cioè una persona che io avevo conosciuto come maschio e che dopo un po' no, tanto che lo seguo dei problemi di stabilità, perché ho continuato a chiamarla al maschile per 2 anni e avere dei vaffanculo da parte sua, perché d'altra parte se io la conoscevo così lo posso fare. Però insomma su lei che mi, in quegli anni lì, magari gli anni di una ragazza virtuale, eccetera, ovviamente la cosa finì peggio che così, perché per adesso la vostra reazione è stata molto contenuta e non va bene, ma so, questa roba qua venne ovviamente presentata a un festival erotico, cioè all'equivalente di un unisex di Bologna, quello lì. E la mia amica che aveva curato, Elena Verena, che aveva curato tutta la parte iniziale, era veramente scalciata perché mi misero non l'aveva venuta a braccio a fare, che è una forma di la nota, a fare la presentazione di questa tuta del un fallimento, perché la miserata non perché era una forma viva, ma è fatta scema, lei non capiva un cazzo, diciamo, l'esperimento andò malissimo. Io invece l'ho visto fare ad Elena, l'ho visto dal vivo su un teatro di Roma, e poi me l'ha fatto trovare, ma è, devo dire che avevo le stesse. È una cosa diversa dal fare il sesso orale con, nel caso mio, che sono sessuale, con una donna in carne ed ossa o con un uomo se fossi omosessuale. Però qui è un po' diverso, non però è anche diverso dalla masturbazione. È un'altra sensazione, non sei tu che ti tocchi, è qualcun altro che ti tocca tramite una tuta, cioè, capito? Tramite una tuta, insomma, tramite poi l'organo, quindi un pezzo del corpo di questo che viene in contatto con te in questo modo mediato, insomma. Ma guardate, pensateci, perché più poi la roba è stata, la cosa è nata, la serie tuta è nata in un posto serissimo, non in un posto di dell'industria porno, è nata allo ZKM di Karlsruhe, cioè in uno dei posti, dei centri di prestazione della cultura digitale europea, e hanno presentato due ricercatori americani, che non cambiano, ricordo che hanno lavorato quell'anno lì, però non lo vogliono andare a nota, ma trovo l'articolo, quello che ha detto per fare. Non riesce a stare sempre. Va bene, direi che su questa originale diciamo, esempio che abbiamo seminato, ok, grazie, possiamo chiudere la lezione di oggi.